di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie. Dopo, la conosciamo da tanto, dopo 10 anni di Serie A senza esoneri, come si definirebbe? Innanzitutto, esiste un segreto nella gestione? Beh, è un dato così. Non fare insomma. Niente, fermi con le mani. È un dato non da tutti, insomma. Sempre dette due cose, ci sono come due slogan: il fatto che non sia mai stato esonerato e che non abbia mai sbagliato una stagione. Però per la prima cosa, insomma, non dovrebbero esserci problemi. Per la seconda, aspettiamo. Per la seconda, non do mai niente per scontati. Stasera c'era anche uno striscione contro di lei che inneggiava il nome di un altro allenatore. Come si vive, insomma, in questo momento particolare? Dopo due vittorie e un pareggio col Napoli, che abbiamo visto squadra si parla in questi termini, no, a me non me ne frega niente. Si può iniziare un dibattito su un povero, perché adesso non vorrei essere querelato da questo signore, da questo cretino, diciamo la giusta. No, no, no, no, mi dissocio subito, aspetta. Per le querele Radio 24, la zanzara, Viale Monterosa. Aspetta, che civico c'è, poi ci lavoro anche. Che civico c'è, Viale Monterosa? No, c'è lo stadio, come cretino? Lo stai a Parma ritagliando prima a casa un pezzo di cartone. È povero. Così e scrive col pennarello viva Mancini. E guarda che impatto mediatico. E si fa un dibattito su questo signore, su questo imbecille. Ma su questo imbecille che va allo stadio con un coso. Mi dissocio completamente, non vi assume tutte quante le responsabilità. Anzi, aiuteremo il signore nel difficoltà. Oggi ci siamo tutti, si sono divertiti i ragazzi, si sono divertiti molto. Franco Piantarini, il nostro autore, Roberto Scaltritti in regia e anche Alessandro Marco Tulli in redazione, il professore. E il primo messaggio che riceviamo oggi è questo: 349 238 6666. Finalmente era ora, non se ne poteva più. Mazzarri esonerato, comunicato ufficiale 12:42. La notizia è rimbalzava dalle 11, arriva Roberto Mancini, il popolo nerazzurro è contento. Giovanni Capuano qui con me, Pierluigi Pardo al telefono. Ciao Pier. Ciao ragazzi, come va? Benissimo, andata. Andata. Ci siamo tolti anche il Mazzarri. Tu pensa che fine estate, che fine estate, inizio autunno meraviglioso, Conte che se ne va dalla mattina alla sera, poi Mazzarri che nessuno si aspettava, diciamo la verità, ieri a quest'ora nessuno se l'aspettava. Guarda cosa possono regalare i momenti senza campionato, Pier. Sì, ma infatti, poi tra l'altro devo dire che è avvenuto tutto abbastanza fuori tempo, no? Nel senso che di solito quando ci sono gli esoneri sono nelle 24-48 ore immediatamente successive alla partita. E qui, insomma, i segnali erano quelli di una tregua, sia pure chiaramente con dei mugugni e delle perplessità. E poi invece è arrivata l'accelerazione, che secondo me era conferma essenzialmente di una cosa, cioè che Toir, io non so se abbia fatto bene o fatto male, i soldi ce l'ha. Non mi sembra una gestione. Vediamo. Giovanni Capuano ha fatto i conti. No, costa vediamo. 31. Sì, costa almeno una trentina di milioni di euro a bilancio nei prossimi 2 anni. Voglio dire questo. Sono soldi che l'Inter non si può permettere, Pier. Diciamolo tranquillamente, apertamente, lo diciamo agli amici. No, non è pazzo. Secondo me ha ceduto e questa per me non è una buona notizia. Ha ceduto alla piazza. Ha ceduto alla piazza. Per la seconda volta dopo il caso Guarin Vucinic. Per la seconda volta, tra l'altro, se ti ricordi, Pier, anche quella volta la reazione di pancia in realtà fu aprire il portafogli e comprarsi Hernanes, sì, per far dimenticare tutto quel pasticcio lì, per dimostrarsi più interista degli interisti. Sì, sì. Io trovo un parallelismo, eh. No, io dico questo, che sicuramente ci può essere da parte di Tohir una sorta di complesso dell'origine, no? Cioè, mentre Moratti non c'erano grandi dubbi che il fatto che fosse nato interista fino al midollo, Tohir chiaramente non è nato interista, e quindi ci può essere da parte sua il desiderio di dimostrare che ha empatia con i tifosi e che in qualche modo ascolta le scelte dei tifosi. Detto questo, secondo me la gestione è una gestione meno povera di quello che tanti pensano che possa essere. Secondo me non è una gestione meno povera dell'ultima gestione Moratti, e la scelta di oggi lo dimostra. Poi può darsi pure che sia una delle tante irrazionalità del calcio, una delle tante follie del calcio, andarsi a mettere a budget, credo, altri 4 milioni per 2 anni e mezzo netti. Può darsi pure che sia così, probabilmente è così, però insomma forse è anche semplicemente il fatto che Tohir i soldi ce li ha. Però ha fatto una scelta che non è quella del Chelsea, del Manchester City o insomma dei tycoons, che è quella di investire in linea di massima su progetti legati al futuro. Qui evidentemente non si fidava più e ha tirato fuori l'extra budget, questo penso. Non si fidava più, oppure la piazza non glielo permetteva più, e quindi ha ceduto. Piero, alle pressioni della piazza, tutti gli interisti e non interisti convocati, mazzariani, antimazzariani, fischiatori, non fischiatori. Comunque non è una buona notizia. Tifosi del Napoli. Io te lo dico, non è una buona notizia per gli interisti, secondo me. Vediamo. 800240024, traffico. Mister, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Innanzitutto. Buongiorno a voi, grazie. Dopo, la conosciamo da tanto, dopo 10 anni di Serie A senza esoneri, come si definirebbe? Innanzitutto, esiste un segreto nella gestione? Beh, è un dato così. Non fare insomma. Niente, fermi con le mani. È un dato non da tutti, insomma. No, come grazie, si definisce? Tutti convocati. Il pubblico non lo vede bene, lei cosa dice? Ma io dico che vediamo, insomma, mi sembra che ieri abbia avuto una buona reazione, una persona è seria, il calcio purtroppo è crudele e pragmatico, nel senso che dipende dai risultati e dai miglioramenti che si possono avere man mano e dalle speranze che ti fa crescere nella gente, perché il calcio rimane sempre qualche cosa che è la partita, è la prossima partita quella che conta. Quindi finché rimane il pensiero o il progetto di un avanzamento in crescita va bene, se invece questa sensazione dovesse decrescere, insomma, allora lo vedo nei guai. Com'è il rapporto con Mazzarri? Pensa ad un progetto a lungo termine con lui? This is what we discuss with the coach. Coach, I really trust you, but at the same time, let's finish this season. And then we planning the next 3 seasons. Ci vogliono 11 Mazzarri in campo. Quindi con 11 Mazzarri, con 11 Mazzarri noi vinciamo tutte le partite 3-0. Sì, sono sicuro io. Fino a giugno 2015, quindi questo è l'allenatore e questo, certo, resta. Assolutamente. Lo puoi garantire. L'ho detto io, l'ha detto il presidente. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi era prevedibile che un po' calassero, comincia anche a piovere. Tutto. Tanto tu no che piove. Non ci vogliono 11 Mazzarri, ci vogliono 11 milioni a stagione per pagare 11. Mazzarri e il suo staff. Per pagare Mazzarri e che poi il moltiplichi suo più o meno per due. Dice che, cioè, Tohir ieri sera dopo cena si è preso male. Ha deciso di mandare via Mazzarri, ha cominciato a chiamare tutto il suo staff, ha allertato Mancini, che peraltro era a vedere Cesena Inter in tribuna, stranamente. Sì, i diretti protagonisti avevano smentito. In realtà a Cesena c'era Bolingbroke, c'era Ausilio e sicuramente sicuramente Mancini, questo è quello che emerge in queste ore, aveva avuto una lunga e cordiale chiacchierata, gli avevano detto tu tieniti libero perché se cambia qualcosa, poi cosa sia cambiato in 48 ore, difficile capire, lo capiremo, difficile capire quale sia la scintilla che ha fatto esplodere Toir prima di andare via, prima di fare questa rivoluzione. Però Pierluigi Pardo, Moratti non c'entra in questa vicenda a quanto pare. Ha dichiarato felice per Mancini, il primo allenatore con cui ho vinto, ha deciso Toir, ma il cambio era necessario. Questo ma decide sempre Toir. Poi alcune volte le decisioni di Toir possono essere in qualche modo condizionate dall'ambiente, ma in questo francamente io non penso che adesso, siccome questo signore arriva dall'altra parte del mondo, gli possiamo fare una colpa di essere sensibile agli umori della piazza. Gli umori della piazza ti condizionano. Se decidi fare il presidente dell'Inter, puoi essere nato a Giacarta, puoi essere nato a Cinisello Balsamo, a Palermo. Cosa ne penserà Pierluigi, il direttore Enrico Mentana? Glielo chiediamo. Buongiorno direttore, buongiorno. Eccoci qua. Come va? Armadietto vuoto, Bene. Armadietto vuoto. Direttore, ha vinto la piazza. Ha vinto? La piazza. Ma non ha vinto la piazza. Non c'è la piazza e non c'è la chiesa vicino alla piazza, c'è la chiesa al centro del villaggio, la chiesa al centro del villaggio, c'è semplicemente che il ruolino di marcia dell'Inter di questa stagione era deficitario sia dal punto di vista dei punti incasellati sia dal punto di vista soprattutto del gioco, e il vero problema, che secondo me è stato decisivo per uno come Toir che vede da lontano ma vede soprattutto i numeri, è che la disaffezione non portava solo fischi o laser in fascia a Mazzarri, ma incassi sempre più deficitari. Allora, se tu vedi che la proiezione della stagione è che incasserai 10 milioni in meno dello sperato e non centri l'obiettivo europeo, facendo ulteriori due righe di conto pensi che ti costa meno cambiare l'allenatore. Te la metto giù piatta, no? Non c'è bisogno di mettere il cuore, il biscione, il blasone o cose di questo genere. Mettiamoci anche dall'ottica, dal punto prospettico di Giacarta, Indonesia, e il discorso resta sempre lo stesso, no? Non è qui la piazza, proprio il piazza affari. Un po' strani i modi, però direttore, un po' strani sono i modi. I modi? Mm-hmm. No, non sono strani i modi. C'è un precedente storico: se l'Inter avesse sfruttato la pausa della nazionale per cambiare il suo allenatore Cooper nel lontano 2001, che si vedeva che aveva perso la bussola e il controllo della squadra, forse non si sarebbe arrivati al fatale 5 maggio. In generale è sempre il momento migliore quando c'è la settimana di pausa della nazionale, se si deve cambiare. Al di là delle intemperanze dei tifosi che dicevano svuota l'armadietto, Pardo, sei d'accordo contro i numeri? Chiedevo a Pardo se era d'accordo con te, direttore. Sono d'accordo, io credo che questa sia una gestione lontana dai sentimentalismi o anche da certi, se vogliamo, eccessi di sentimentalismo dell'epoca morattiana. È una gestione razionale, che non è detto sia migliore, forse sarà peggiore, questo non lo sappiamo, però è una gestione basata appunto molto di più sui numeri, sui risultati. Io credo che onestamente l'intenzione di Toir fosse quella di rimanere con Mazzarri, cioè io non penso che fosse poco sincero quando diceva che voleva costruire con lui un progetto. Gliel'ha confermata questa fiducia in estate, poi evidentemente si è reso conto che siamo arrivati a un punto di non ritorno. La piazza ha pesato sicuramente, perché poi insomma stiamo parlando di un allenatore che aveva il laser addosso puntato ai suoi tifosi. Ma di che stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando veramente di un separato in casa, di uno che al 90% dei tifosi nerazzurri era in questo momento completamente inviso. Quindi questo incide, ma non è la piazza, cioè dobbiamo intenderci. Se un giornale progressivamente perde metà delle sue copie nel giro di 6 mesi, il direttore viene cambiato, ma non dice che è la piazza, dice che semplicemente è una questione ovvia. Tu vivi di quello, è una squadra di calcio, vive in buona parte anche ovviamente dei ritorni economici, perché sennò non può competere, visto che il signor Toir è stato convocato, come ben sappiamo, a Nyon dall'UEFA per rendere conto economicamente dell'Inter. Non puoi pensare che una squadra che perde spettatori ogni settimana e perde posizione in classifica, poi puoi costruire qualcosa, no? Quindi seguendo il vostro filo del discorso, il Milan dovrebbe pensare alla sostituzione di Inzaghi, che ha un punto in più di Mazzarri, e questo è il giudizio tecnico. Ma soprattutto sta facendo numeri di pubblico inferiori, nettamente inferiori al Milan di Allegri, al Milan di Allegri dell'anno scorso. Non è stato convocato né Berlusconi né Galliani a Nyon, e soprattutto Inzaghi è lì da 11 partite, Mazzarri è lì da un anno e 11 partite, e nessuno è in grado di spiegare quali sono gli schemi di gioco dell'Inter. Cioè, non, nessuno è così autolesionista da dire tolgo l'allenatore, al quale peraltro ho rinnovato il contratto in estate, da pochi mesi, certo. se non ci fosse un allarme serio, un allarme condiviso tra l'altro da critica e pubblico, cioè, perché i difensori di Mazzarri sono solo quelli che dicono appunto ci smeni economicamente a toglierlo perché gli avevi fatto il rinnovo del contratto. Io, uno che razionalmente spieghi perché Mazzarri doveva restare alla guida dell'Inter, non lo trovo, perché dovrebbe spiegare qual è il piano di rilancio che ha messo in atto a partire da 16 mesi a questa parte. Ma assolutamente, io trovo che la variabile ambientale abbia inciso poi quindi sul comportamento della squadra, sui dati di affluenza allo stadio, e siccome poi alla fine quello che contano sono i numeri, secondo me questo aspetto ambientale è inciso, cioè io trovo che l'elemento di mancata empatia di Mazzarri con i tifosi sia diventato un problema. Si è diventato un problema perché comunque, vedendola in termini freddi e aridi, qui c'è un consumatore, uso una parola terribile, che è tifoso dell'Inter, che in questo momento era un consumatore non più innamorato, non più spendente, cioè proprio usando quegli orrendi termini di marketing o del commerciale. Quindi io penso che questa sia una mossa per riuscire a recuperare consenso, per riuscire a recuperare un progetto tecnico e anche una sintonia ambientale con i tifosi. Non ci vedo niente di male da questo punto di vista. No, a parte che l'Inter spende 20 milioni quest'anno per lo staff tecnico, però secondo me sono numeri su un bilancio che è quello che conosciamo, su un monte stipendi complessivo che non arriva a 100, sono numeri che secondo me non fanno pensare a una mossa ragionata. Però o è pazzo, o ribadisco. No. Fammi sentire ancora, sì, il direttore, che poi lo salutiamo. Ah, già devo andare via, sono stato. No, il direttore, se vuoi restare, puoi restare fino alle 4. Adesso la settimana a parlare di questo, perché la sostanza è che, come sono stato preso per spesso quando ho cominciato a dire che era bene per tutti che Mazzarri svuotasse l'armadietto, e bene anche per Mazzarri che si stava consumando a fuoco lento, bene per la società, bene per i tifosi, bene per gli incassi. Allora, dal punto di vista degli incassi l'abbiamo già detto. Vedremo per gli incassi, vediamo, 7 dicembre Inter Udinese. Si basta girare per qualsiasi ambiente della tifoseria interista per vedere che se c'era qualcuno che non voleva più andare allo stadio, trovi della gente che adesso si rimotiva, e si rimotiverebbe, tanto per prevenire la facile obiezione, anche se per caso non andassero bene le due partite col Milan e con l'Udinese, sì, perché comunque si sa il caso che Mancini, e questo è un trademark, ha già vinto 3 scudetti con l'Inter. Allora, direttore, senti, se ancora 2 minuti fra 3 minuti, adesso abbiamo la borsa, devo rispettare palinsesto come tu ben sai, se no mi bacchettano, ti richiamiamo fra 3 minuti e parliamo invece del futuro, cioè di Mancini, che è già in macchina, che sta arrivando a Milano. Lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Poi non ci scordiamo che siamo in emergenza, i ragazzi erano prevedibili, un po' calassero, comincia anche a piovere. Quindi... Tutti convocati. Allora, per gli italiani no, perché non credo che agli inglesi interessi molto. Allora, solo per dire che nonostante io abbia un contratto di 4 anni con l'Inter ancora, credo che per me questi saranno gli ultimi 2 mesi e mezzo da allenatore dell'Inter, e questo l'ho detto ai ragazzi, lo dico anche pubblicamente, così non c'è nessun tipo di problema, perché sennò poi dopo verrebbe fuori, e spero che questi ultimi 2 mesi e mezzo siano 2 mesi e mezzo importanti, che ci consentano di rivincere lo scudetto e di vincere la Coppa Italia. Grazie. Ma non è la sconfitta assolutamente, anche se avessimo vinto, sarebbe, questo è il mio pensiero. Grazie. Questa sera c'era anche uno striscione contro di lei che inneggiava al nome di un altro allenatore. Come si vive, insomma, in questo momento particolare? Se si, dopo due vittorie e un pareggio col Napoli, che abbiamo visto squadra essi, si parla in questi termini, a me non me ne frega niente. Allora, Giovanni Gabone qui con me, Pierluigi Pardo al telefono, c'è ancora il direttore Enrico Mentana che ringrazio, per parlare, per aprire una finestra sul futuro. Mancini e Moratti si erano lasciati male, direttore, invece, tra appena un'indiscrezione, Andrea Sorrentino, che poi sentiamo più tardi, su Repubblica, scrive che ieri sera si sono incontrati Moratti e Mancini, ed è stato proprio Moratti a convincere Mancini. Solo tu puoi salvare l'Inter, avrebbe detto in sostanza l'ex presidente dimissionario, a Roberto Mancini, che sta arrivando a Milano. Io non so se sia vero. Sorrentino è un collega che stimo e che leggo sempre, da tifoso e da giornalista, quindi non so se sia vero. Ho letto altre versioni secondo cui tutta sarebbe farina del sacco indonesiano. Quello che è vero è che Mancini, tra i grandi allenatori che sono sul mercato, che erano sul mercato, è l'unico che conosce sicuramente bene l'Inter, è l'unico che dice qualcosa di antico, ma anzi di nuovo, alla tifoseria, ed è l'unico che ha un progetto internazionale vero, possibile, e anche l'unico che, come dire, può avere parlato con Toir direttamente in intermediari, perché parla bene l'inglese, questo lo sappiamo. Insomma, ci sono tutta una serie di motivazioni che fanno pensare che se Moratti ha detto la sua, comunque non è stato soltanto una fortuna, anche perché poi Moratti dovrebbe spiegare perché lui ha fatto i passi indietro, si chiede agli altri di fare passi avanti, no? Certo. Io penso che qualsiasi allenatore o figura rappresentativa del calcio che debba intraprendere un passo contrattuale verso l'Inter dice a Moratti grazie, grazie tante, ma poi parla con Tuir, perché i soldi da lì devono venire e soprattutto il futuro da lì deve venire. Quindi tendo ad accreditare, certo, magari ci sarà anche la pista romantica, ma ripeto, questa non è solo una storia di passione, è una storia anche di rilancio economico, e quindi sono discorsi che si fanno. Secondo versioni che ho sentito, tra l'altro, la trattativa notturna è stata anche piuttosto lunga, perché notoriamente neanche in questo Mancini è un dilettante, no? Quindi certo, è uno che avrà fatto tutto quello che c'è da fare per mettere clausole importanti nel contratto. Quindi adesso poi aspettiamo e sapremo, forse è tutto. Quel che è certo è che la svolta è forte, La svolta è forte anche societariamente, perché nessuno da qui in poi potrà dire più niente o ironizzare sulla micragnosità di Toia. Sì, anche perché Pardo, Mancini avrà chiesto qualcosa, no? Anche dal punto di vista del mercato, anche dal punto di vista dell'organico. Guarda, io quello che già qualche giorno fa in radio avevo detto innanzitutto è che ero abbastanza convinto che Mancini avesse voglia di Inter, avesse voglia di rimettersi in gioco, e che anche dal punto di vista della trattativa economica, comunque 4 milioni evidentemente non sono pochi, fosse in grado e fosse disponibile a venirsi incontro con la società. Io credo che, insomma, chiaramente questo deve essere un progetto di rilancio, quindi è ovvio che deve essere accompagnato da una serie di acquisti, però ricordiamoci pure che quest'estate avevamo sottolineato in tanti che alcuni acquisti dell'Inter ci sembravano buoni, cioè l'Inter era uscita dal mercato con tutta una serie di recensioni positive, quasi col premio della critica, e quindi insomma poi bisogna anche mettersi d'accordo da questo punto di vista. Sicuramente i risultati non sono stati all'altezza, io credo che l'aspetto ambientale abbia pesato molto, ha pesato anche la confusione di Mazzarri, che è di fronte al primo vero fallimento di una carriera fino a questo momento all'alta percentuale, insomma credo che questo debba essere sottolineato, non aveva mai sbagliato, stavolta ha sbagliato. Sì, gliel'abbiamo tirata in tanti questa storia, che non era mai stato esonerato. Se posso dire una cosa, Mancini conosceva un'altra Inter però, l'Inter di Giulio Cesar, Maicon, Cambiasso, Cordoba, Vieira, Ibrahimovic, questa è un'Inter diversa, bisogna vedere quanto sarà capace di adattarsi. E poi, ed è l'ultima riflessione che lascio al direttore, se permette, mi interessa sapere cosa fa adesso Moratti, cioè se sottoscrive l'aumento di capitale, se torna innamorato, se è tutto appianato con Toir, che evidentemente, del quale evidentemente non condivideva il progetto, la visione che aveva dell'Inter. Allora, sulle due cose, prima brevemente, Mancini, a differenza di Mazzarri, è vero che conosceva un'altra Inter, ma ha allenato poi grandi squadre internazionali, bene o male, perché stiamo parlando di Mancini, non di Mourinho, questo dobbiamo essere molto molto, molto chiari. Mancini può far bene, o, come io spero anche da tifoso ovviamente, oppure no. Sicuramente è un allenatore che sa come si entra in una squadra già forte di suo. Mazzarri aveva sempre fatto bene, ma sicuramente era la prima volta che entrava in una squadra già forte e di blasone, e purtroppo non ci si è ambientato da nessun punto di vista. Non è stato un galvanizzatore, non è stato un parafulmine come è stato Toir rispetto ai suoi giocatori, non è stato un seminatore, nel senso che è riuscito molto poco a utilizzare, come si sa, un settore giovanile, quello dell'Inter, particolarmente rigoglioso, e sono mancati i risultati e la passione di gioco del tifoso, perché questo è stato l'aspetto principale. L'Inter che gioca male e perde, il tifoso dell'Inter non la butta giù. Può accettare un Inter che magari non ha un gioco splendido ma vince a ripetizione, o un Inter che gioca bene ma non vince, ma le due cose insieme il tifoso dell'Inter non le ha mai mai sopportate, e questo si è tradotto nei fischi di Morati ha delle forti responsabilità, che siccome tutti vogliamo bene a Morati non vengono mai sottolineate, però è Morati che ha ceduto l'Inter a Toir, è Morati che in qualche modo ha fatto voltare pagina alla storia della società. Adesso se Morati vuol tornare, vuol sottoscrivere l'aumento di capitale, vuol tornare ad avere una voce in capitolo, è benissimo, però il tifoso dell'Inter sa benissimo che poi bisogna entrare in una nuova era, che è quella del fair play finanziario, che è quella di scelte che si fanno sul lungo periodo, con un rapporto con le banche, e non è più il ricco buono che si circonda in società di tutti gli ex campioni, e quel che sappiamo che è stato il mix di successo e di insuccesso, ma di insuccesso sempre glorioso, se posso permettermi di ironizzare, dell'Inter e di tutta la lunga stagione moratiana che è culminata nel triplete. Adesso è un'altra cosa, se Moratti ci sarà, bene, se no, comunque, voglio dire, è stato lui a scegliere non a caso un nuovo proprietario che stava dall'altra parte del mondo. Questo mi sembra veramente un punto fondamentale e non ancora del tutto chiaro, c'è ancora chi è un po' irrisolto da questo punto di vista. Insomma, se uno fa il presidente, ci mette i soldi, ha la maggioranza, ha pienamente diritto di dire la sua, di decidere e di farsi giudicare. Se passa la mano, come è successo di fatto, pur nel rispetto ovviamente della bella persona che è, e immagino che per i tifosi insomma rimarrà per sempre nel cuore, non può avere questo potere di condizionamento anche occulto, perché sennò rischia di diventare un problema. Io su questo sono perfettamente d'accordo, volevo chiedere al direttore se c'era già stato scambio di battute con gli amici rossoneri in vista del derby, fratelli eccetera, se fa più paura l'Inter con Mancini. Lo dico perché forse non lo sanno gli ascoltatori, mio fratello è il team manager del Milan, quindi potete immaginare il derby sottinteso che condiziona le nostre esistenze, ma in realtà è molto poco, per dire onestamente, perché un conto è chi il calcio lo fa di lavoro, un conto chi lo tiene come passione, è una cosa completamente diversa ovviamente. No, non ho sentito mio fratello, se questo che mi chiedi, però quello che dico sempre è che il Milan si trova in una situazione ben diversa, ha già vissuto quello che è il punto di avvallamento maggiore della crisi, adesso non può che vivere di speranza con un allenatore nuovo che peraltro è una bandiera del Milan del passato, quindi è comunque qualcosa di diverso. Qui c'è un progetto professionale che sceglie un professionista di alto livello e che punta su un investimento probabilmente più a medio che a breve, ma che già nel breve dovrebbe dare la scossa, e quindi sarà un derby che potrebbe essere di tutti i tipi, ma non sarà decisivo. Sicuramente è un derby che si popola di pubblico molto di più di quanto non sarebbe stato fino a stanotte. Grazie direttore. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Grazie Enrico Mentana. Grazie davvero. 800 24 00 24, numero verde, strade, poi torniamo ascoltatori. Vabbè, una valanga, immagino. Tutti convocati. Senta, io non vorrei tanto portare la pelle lunga, però io voglio la testa di Mazzarri calcisticamente parlando. Niente di meno. Sì, signor Cente, perché immagini la scena, io tutto là pronto che voglio vedermi una grande Inter e sono tutto là, inizia la partita, il Cagliari schierato 2-0-8 a centrocampo, chiamo la SNAI, 10 euro, 6 a 0 per l'Inter. E poi vado a vedere 4 a 1 per Cagliari, con la squadra chiusa in difesa, se manco fosse Real Madrid. Allora, 7 dicembre, Inter Udinese prossima in casa, quindi tutti lì dopo. Pietro da Milano, buongiorno. Vediamo. Sì, pronto, buongiorno. Pietro Gallenzi, vicepresidente fondatore del primo Interclub di Milano, l'Interclub Templari. Siamo entusiasti della decisione del presidente Toir. Finalmente l'ambiente si ricompatta, c'è una piazza che stamattina si è risvegliata con questa notizia qua, che all'inizio poteva sembrare, diciamo, una voce di corridoio, poi man mano che passavano i minuti la cosa ha preso sempre più corpo, e poi il nostro centralino è praticamente impazzito, tutti i tifosi che volevano sapere per trovare i biglietti per il derby, e ahimè lo gioca in casa al Milan, quindi noi come centro, come Interclub e centro coordinamento, quindi fanno gli abbonamenti portiamo. Tutti? Stamattina già i nostri soci hanno fatto già l'abbonamento che l'Inter aveva rimesso in essere, l'abbonamento della stagione in corso, e già tanti soci dei nostri hanno rifatto l'abbonamento. È una decisione saggia, non si poteva andare a San Siro con quel clima triste, mortificato, rassegnato, mancava proprio l'entusiasmo, mancava tutto, e probabilmente Toir ha capito che eravamo a un punto di non ritorno. È chiaro che l'errore grosso è stato in partenza avere rinnovato per un'altra stagione per non delegittimare Mazzarri, 2 anni di contratto dopo l'annata dell'anno scorso, dove comunque già si cominciava a respirare un certo clima ostile da parte della piazza nei confronti di Mazzarri, un allenatore bravino per una squadra di provincia, non certamente un vincente, non certamente un allenatore da Inter, e un allenatore soprattutto che aveva fatto una mossa veramente antipopolare, quella contro Zanetti nel derby, che non l'ha fatto giocare titolare. Poi nasce tutto lì, il peccato originale, Pardo, è quello lì, è quello della fine della scorsa stagione. Sì, sì, beh, insomma, è stata fatta una scelta che, ma io ribadisco adesso, il massimo rispetto per i Templari e per gli umori dei tifosi dell'Inter, che sono ovviamente, come abbiamo detto, liberissimi di dire e di esprimere, come hanno fatto del resto, il loro punto di vista. Alla fine dell'anno scorso è stato fatto un punto, sicuramente l'Inter non aveva fatto una stagione eccezionale, però io ho sentito tantissime lamentele da parte dei tifosi dell'Inter, non soltanto da parte di Mazzarri, di gente che diceva che c'erano stati torti arbitrali, che la squadra meritava di fare qualche punto in più. Cioè, non mi sembra che alla fine della stagione ci fosse questo clima drammatico, disperato nei confronti della squadra e del lavoro di Mazzarri. Sicuramente quest'anno la crescita non c'è stata, ma ribadisco, al di là dei risultati, che sono brutti, ma secondo me non così catastrofici, anche perché sennò rischierebbe pure Inzaghi, cioè, no, voglio dire, comunque potrebbe essere messa in discussione anche Inzaghi, e c'è un elemento di mancata simpatia che è nata, di mancata fiducia, e questo ha pesato. C'è quel peccato originale lì, Pier, te l'ha spiegato uno dei più importanti club che popolano San Siro, i pochi che sono rimasti, che popolano San Siro. Adesso vediamo questo effetto sugli abbonamenti. Io ricordo che quando il Milan ha preso Balotelli, aveva riaperto Gagliani la campagna abbonamenti, alla fine erano state poco più di 700, quindi poca roba. Vediamo. Ma c'è il fatto che si riapra la campagna abbonamenti? No, ma l'Inter non l'ha mai chiusa, appunto, o comunque sì, oppure che si ricordi che è ancora aperta, voglio dire, c'è già un effetto evidentemente psicologico, un effetto alone positivo dal punto di vista degli introiti, del marketing, di tutto quello che verrà fuori. È chiaro che un investimento come quello di Mancini non è che te lo ripaghi con 2.000-3.000 abbonamenti in più, o con 5.000 spettatori in media di più, o 10.000 quelli che saranno ogni partita, e quindi la decisione è una decisione strettamente tecnica, e qui forse per una volta bisogna parlare un po' di Mancini. Mancini è un allenatore comunque di altissima fascia a livello europeo, è anche un allenatore che ha vissuto dei fallimenti, non è che ha sempre fatto benissimo, e probabilmente poteva vincere anche di più, però insomma è chiaro che è un allenatore che colloca l'Inter dal punto di vista dell'allenatore appunto in una fascia di grandissimi club, quindi io penso che anche da questo punto di vista sia stata fatta questa scelta, perché se no c'era l'ipotesi Zenga, che era molto più comoda, era molto più semplice, costava molto meno. Tra l'altro lui ha scritto di essere stato in corsa fino all'ultimo, ha mandato un tweet questa mattina, sono stato in corsa, evidentemente sarà per un'altra vita. E quindi anche questo è un segno del fatto che Toir ha un orecchio alla piazza, ce l'aveva ben presente. Pierluigi, ti ringrazio, ci sentiamo domani, bella giornatina. Domani? Domani? No. No? Domenica. No, domenica alle 5. Confusione. Arrivederci. Ciao ragazzi. Ciao. Pier. Noi invece ci ritroviamo dopo Bet Corner e GR. Quote e pronostici. Questa sera in campo tre gironi di qualificazione agli Europei 2016. Alle 20.45 si gioca Serbia-Danimarca, gara che si disputa a porte chiuse dopo l'interruzione di Serbia-Albania per scontri. Vediamo dunque le quote sniper per questa partita. 1 quotato 2.15, X a 3.20, 2 invece con il successo danese quotato 3.50, gol a 2, no gol quotato 1.73. Derby britannico sempre questa sera tra Scozia e Irlanda, si gioca a Glasgow alle 20.45, 1 successo scozzese quotato 2.30, X a 3.15, 2 invece con la vittoria dell'Irlanda quotata 3.15. Sabato va in campo la Serie B con Bologna-Brescia, match delle 20.30, 1 quotato 1.85, X a 3.30, 2 invece quotato 4.50. Per la capolista Frosinone, trasferta a Pescara domenica alle 15, 1 quotato 2.60, X a 3, 2 invece quotato 2.90. Derby siciliano tra Trapani e Catania, si gioca sempre domenica alle 15, 1 quotato 2.80, X a 3, 2 con la vittoria del Catania quotata 2,65. Questa era l'ultima delle quote di oggi. Noi ci risentiamo domenica. Tutti convocati. Sono questi fischi, giovani capolano? Sono l'Inter Lazio fine maggio dell'anno scorso, due settimane dopo, una settimana dopo il 4 maggio. Dunque? Milan-Inter. Dunque? Quando Mazzarri tenne in panchina Zanetti all'ultimo derby della carriera. Dunque, ed è il peccato originale. Il peccato originale di Mazzarri. Poi ci possono raccontare quello che vogliono, ci possono raccontare di 16 punti che sono pochi, 4 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 7 punti nelle manca ultime 4. Manca, 7 punti nelle manca ultime il 4 gioco all'Inter. Sì, ma l'Inter manca anche la gioco. Qualità per farlo, probabilmente il gioco. Io non voglio difendere Mazzarri, poi magari parliamo dell'aspetto tecnico. Noi qui fin qui abbiamo parlato di quello economico, di perché Toir ha fatto questa scelta, che non è una scelta tecnica, evidentemente è una scelta che ha altre e più profonde motivazioni. Però quello è un peccato originale che costa carissimo. Prima abbiamo parlato degli abbonamenti. Allora io ti faccio due conti. L'anno scorso a bilancio l'Inter ha messo 7 milioni e mezzo per i circa 30.000 abbonati che aveva. Ecco, 7 milioni è più o meno quello che prende Mancini, quindi in più sì. È l'extra budget, diciamo, che Tuir deve mettere per licenziare Mazzarri. Cioè basterebbero circa 30.000 abbonati per coprire quella spesa lì, se vogliamo seguire il filo del ragionamento che da questo pomeriggio ci sono le file fuori dalla sede dell'Inter per rifare l'abbonamento, anzi il mini abbonamento. Allora 800 24 00 24, sentiamo gli umori degli ascoltatori. Io faccio un pronostico e non lo faccio anch'io. Non no, è molto difficile. Dicono che ci siano non è molto i caroselli ci per sono strada. Bravo, stavo dicendo io. Ci sono i caroselli in giro per Milano con le bandiere nerazzurre. Franco Bustarsizio, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Io non vorrei essere una pecora nera, però io trovo che innanzitutto siano i tifosi da cambiare un po', perché i tifosi dell'Inter, ovviamente, io sono uno di questi, io sono sempre stato un grande tifoso nerazzurro quasi da curva, adesso ahimè per l'età che ho non posso più andare allo stadio in quei settori, però trovo che il popolo dell'Inter sia troppo, ragioni troppo con la pancia, quindi oggi sono tutti felici perché Mazzarri se n'è andato e da oggi pensano di vincere ancora lo scudetto, di tornare nei fasti di pochi anni fa. Invece secondo me bisogna essere un po' più obiettivi. Stiamo parlando di una squadra mediocre che ha una rosa mediocre, che certo potrebbe anche fare qualche punto in più, però quello è quello che si può ragionevolmente fare. Io trovo che Mazzarri sia stato un allenatore né più né meno normale, È un allenatore che tra virgolette è stato anche un po' sfortunato, perché ha sempre avuto una squadra che aveva 11, soprattutto nelle ultime domeniche, 11 uomini contati. Cioè, ricordiamo che il primo cambio che doveva fare era Bonazzoli di turno o Ovi di turno. Stiamo parlando di una squadra dall'altra parte di Milano, dove un allenatore non sa quanti attaccanti può mettere dentro e c'ha solo due punti in più. Però c'è anche una carta stampata che non attacca mai una certa squadra, ma attacca solo. Sì, però Franco, io adesso resterei a parlare dell'Inter. Mi sembra che il paragone con Milano abbiamo tutta settimana prossima per farlo. Certo. Però hai ragione, il tifoso dell'Inter è particolare. Io stavo facendo un ragionamento questa mattina, la metto lì come provocazione. 10 anni fa il Borussia Dortmund era praticamente fallito, ma fallito nel vero senso della parola. In campo arrivava nella metà bassa della classifica, eppure c'erano 75.000 spettatori a Dortmund, non se ne sono andati via. Ecco, io credo che in questo momento i tifosi dell'Inter non abbiano fatto il bene del club, se davvero lo amano, a fare questo tipo di atteggiamento. Ne parlava anche Enrico Mentana prima, cioè ad abbandonare completamente la squadra prendendo come pretesto Mazzarri. Adesso ripeto, vediamo, ci sono l'Udinese e la Lazio in casa prima di Natale, vediamo. Vediamo cosa? Vediamo le file di gente a fare l'abbonamento, ma San Siro che torna a riempirsi. Giovanni, io credo che comunque un certo impulso alla gente nell'azzurra questo cambio lo darà, per le ragioni di qui sopra, No. Inzaghi vale circa 2000 abbonamenti in meno rispetto ad Allegri. Non è una questione di risultati, in questo caso non stiamo parlando di risultati. Quindi, di risultati. No, di empatia, di tutto il resto. Allegri aveva rotto con il Milan, aveva rotto con tutto l'ambiente, non piaceva, lo fischiavano. Inzaghi invece ha l'ambiente del Milan intorno a sé. Quindi sì, non ha l'ambiente del Milan intorno a sé e la gente a San Siro non ci va lo stesso. Non ci va lo stesso. Perché non si riconosce in questo Milan, dice che Berlusconi non è più quello di prima, non investe, non fa più quella squadra lì. Un po', secondo me, la stessa cosa che hanno nel cuore i tifosi dell'Inter, che faticano a riconoscersi in questa Inter che è lontana da quella che si sono abituati. Ma quella che si sono abituati a conoscere non la vedranno per piano quinquennale? Quella l'Inter del triplete, di Mourinho, magari non la rivedranno mai, magari fra 10 anni, magari fra 5. Tutto questo non sono più nelle condizioni di vederla, ma non c'entra Mazzarri in questo. Roberto Fidenza, buongiorno. Buongiorno. Sul caso Mazzarri e Mancini, sul piano tecnico va bene, però io sono d'accordo sia con Radio Scrittore di prima sia con Giovanni Capuano. Uh-huh. Mancini costa 20 milioni lordi in questi 2 anni e mezzo. Una società che è andata all'UEFA col cappello in mano per questione di debiti, per questione di 100 milioni di passivo nel bilancio. Io mi chiedo, questa squadra può arrivare per me dal quarto al settimo posto? Era impossibile farlo con Mazzarri? O si fa un progetto veramente e Toir tira fuori veramente dei soldi, un progetto più a lungo respiro, cioè tipo la Juve, così alla Roma, allora ci può stare. Altrimenti io sono d'accordo con Capuano, per me io avrei tenuto Mazzarri, perché non si può andare dietro ai tifosi. Sono d'accordo anche con Radio Ascoltatori di prima, non si può andare dietro ai tifosi, ma di fatto è quello che Toir ha fatto per la seconda volta. Tengo a far notare, chiaro che quello era un caso di portata minore, però lo scambio Guarin Vucinic fu stoppato dalla piazza quando era già fatto, e la piazza disse no e Toir disse va bene, allora compro Hernanes. Michele Dalai, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Da che parte della piazza stai? Allora, ci sono delle ragioni del cuore che metto davanti. Il ritorno di Mancini è una di quelle cose che non può che emozionarmi per tanti motivi, perché il momento dell'addio fu molto traumatico e a me piaceva molto Mancini, è uno di quelli che se ne andò dall'Inter in malo modo. Ecco, questo Mazzarri si iscrive anche lui al club, il fatto che l'Inter non riesca ad avere un rapporto sereno con le persone che per lei lavorano è un po' doloroso da vedere, perché proprio non c'è mai una fine decente. Mazzarri aveva tutta la... passando poi al tema Mazzarri, le colpe di Mazzarri sono poche, continua a insistere, forse la colpa di Mazzarri è essere Mazzarri, cosa che è stata del tutto indigesta, una tifoseria da questo punto di vista ancora ostaggio degli estetismi perfetti di Mancini e Mourinho, quindi può riportarli Mancini serve forse anche a questo. ti ascoltavo, dicevi che per la seconda volta in pochi mesi Toir entra con decisione a favore della piazza. Beh, adesso Guarin non ha dato tantissimo negli ultimi mesi, ma Vucinic, ahimè, è un ex calciatore, quindi la prima volta è andata bene. La seconda è tutta da verificare. Io non so cosa Mancini possa fare con un gruppo di calciatori che, a mio giudizio, non è assolutamente un eccellente gruppo di calciatori, ma soprattutto che era molto legato a Mazzarri. Questo è un elemento da non sottovalutare. Cioè, la squadra dell'Inter, alcuni giocatori molto rappresentativi tengono, per vie ufficiose e non ufficiali, a far sapere che erano dalla parte di Mazzarri. Ora tu mi dirai, e allora perché giocavate come dei caproni? Non lo so. Sai, Michele, però è anche abbastanza difficile lavorare per Mazzarri e per i giocatori in un ambiente così, in cui ti becchi molto fischi a prescindere, in cui sono tornati certi tempi. Non voglio risalire ai motorini e a quant'altro, certo. Però sono tornati certi tempi a San Siro quando gioca l'Inter. Ma sai, la cosa che ti lascia ancora più perplessi, penso che tu abbia molto ragione, ti dirò anche di più, frequentando il deserto di San Siro degli ultimi mesi, è che è un elemento che dell'Inter faceva una squadra a volte meravigliosa, sublime, a volte grottesca, era quello della pazza Inter, cioè di queste crisi isteriche collettive nel bene e nel male. Purtroppo Mazzarri ha dovuto anche affrontare due anni in cui l'entusiasmo era completamente scemato, e quindi magari ci fossero stati dei fischi. Cioè, le ultime apparizioni dell'Inter in casa con il nome di Mazzarri omesso dallo speaker, un atteggiamento di totale freddezza, vedere l'Inter che gioca in casa col Saint-Étienne con 3.000 tifosi interisti e 8.000-9.000 francesi in trasferta, è un po' impressionante nel male, una suggestione negativa. E quindi si era creato questo incantesimo. Io sono d'accordo sul fatto che gli allenatori non vadano esonerati a furor di popolo, e che comunque l'esonero di allenatore tende a essere un'idiozia nel lungo. Il nome che Toir mette sulla piazza, però mette d'accordo tutti, no? Mette d'accordo tutti, però sai, anche il fatto che del tweet di Zenga di qui sopra sta a dimostrare che un orecchio alla piazza Toir ce l'aveva, come, quindi non è possibile dire che la piazza non abbia influenzato le decisioni dei proprietari indonesiani, no? L'ha influenzata, e come? Ecco, l'unico ragionamento sul quale io invece sono un po' meno allineato è questa enorme suggestione del portafoglio che Mancini richiede ai suoi presidenti. Non può che voler dire che Toir adesso è pronto a investire delle cifre folli. Mancini è anche un ottimo allenatore di uomini e di gruppi di giocatori. La Fiorentina di Mancini non era una squadra sublime, la Lazio di Mancini è una squadra che ha costruito lui. Credo che da questo punto di vista invece lui si rimetta molto in gioco e corra un pericolo concreto. Evidentemente individua del talento in alcuni di questi giocatori, però attenzione, perché è il primo a essere consapevole che dai piedi di Medel non nascerà Zidane. Sì, anche perché quei soldi non ci sono. Noi passiamo in 48 ore dalla lettura del fatto che Toir ha bisogno di ricapitalizzare, ha bisogno di un socio, va a chiedere a Moratti di metterci la sua parte, Moratti gli dice no. Adesso siamo qui ad immaginare che Mancini possa chiedere per gennaio o per giugno, luglio, una campagna acquisti di un certo tipo, cosa che io credo sia abbastanza complicata da ritenere tale. Dal punto di vista tecnico c'è da ragionare se Mancini riuscirà a far rendere al meglio una squadra che era stata costruita per un altro tipo di gioco. Ad esempio mi viene in mente Dodò, che è stato uno dei pochi acquisti che l'Inter pagherà, ma diciamo ha fatto in questi mesi. Beh, Dodò è un giocatore che a Roma nella difesa 4 ha dimostrato di avere dei grandissimi problemi, eppure è un giocatore su cui l'Inter ha investito tantissimo. È vero, a meno che non ci siano dei piccoli accorgimenti, perché chi ha visto giocare Dodò, chi vede giocare regolarmente Nagatomo, è perfettamente consapevole che si tratta di due esterni d'attacco, non di due uomini che hanno anche la fase difensiva. Chissà mai che in una squadra riadattata possano avere quel ruolo, cioè sono due centrocampisti aggiunti in qualche modo, sicuramente non due terzini. Credo che ci possa essere anche l'effetto positivo su un giocatore molto in imbarazzo come Vidic, che ha dato il peggio di sé in questi mesi. Invece sì, torna nella difesa 4, questo è sicuramente un bene. Poi bisogna vedere con chi, perché magari torna con Ranocchia, esatto. Il passo è lungo per tutti e due, e non è detto che sia l'ideale. Però vediamo, no. Questo avrà tempo Mancini per lavorarci. Adesso proviamo a fare una proiezione noi. Sentiamo gli umori della piazza, Michele. Andrea Padova, buongiorno. No, Massimo da Siena, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie della convocazione. Allora, io volevo pronunciarmi un attimino in senso un po' opposto al tifoso interista, pur essendo un tifoso interista. Intanto un tifoso non va uscia perché toscano e non milanese. Beh, dunque, esonerare Mazzarri può avere un senso se guardiamo i risultati, e su questo non c'è dubbio. Ma prendere Mancini, secondo me, è veramente cambiare, come diciamo dalle mie parti, gli asini con i poponi. Vale a dire, prendere un allenatore che ha una bella capigliatura, una bella sciarpa, veste bene, parla bene inglese, ha tanti pregi di merchandising, ma queste squadre che giocano bene io non le ho viste. Soprattutto l'Inter di Mancini vinceva in una circostanza ben particolare e non convinceva. Non ci dimentichiamo dei gol all'ultimo minuto, di campionati vinti rischiando di perderli e quant'altro. Quindi dico che sostanzialmente Tohir può aver fatto una scelta sensata di merchandising, ma ho dei grossissimi dubbi che questa porti dei risultati sul piano del gioco, con questi giocatori poi anche meno. Da dire una cosa però anche, Tohir ha cambiato tutta la società e questo va bene, perché nel calcio moderno credo che la società impostata alla Moratti sia ormai un modello completamente sorpassato. Però alla Bolingbrook, Claire Lewis, altri dirigenti stranieri, io ho visto addirittura un Dan, non ricordo il cognome, per la ricerca di sponsor internazionali. Sì. Io ancora non ho visto nulla, cioè mi sembra di essere una situazione dove si annuncia, ma non si vede per ora nulla da un punto di vista economico di salto di qualità. Cioè non abbiamo il salto di qualità che hanno avuto le società straniere o anche italiane tipo la Roma, quando si sono lanciate sul mercato internazionale proponendosi in un altro modo. Per ora di internazionale l'Inter ha il nome, il nome dei dirigenti, ma niente più di questo, nemmeno più le maglie, perché voglio vedere come si fa a vedere le maglie dell'Inter in Corea facendo le celestine. Sentiamo Michele Dalai su questo ragionamento societario. Sì, allora non sono assolutamente d'accordo, ma per una serie di motivi più o meno infiniti. L'Inter di Mancini arriva dopo il ciclo più perdente e drammaticamente perdente della storia dell'Inter. Il 5 maggio, che viene dopo il 98, una squadra ormai completamente prigioniera intanto delle sue illusioni, delle sue velleità, ma incapace di arrivare alla fine. Una squadra, giustamente o meno, e questo lo dice la storia, complottista, quindi lo dico da interista, quindi con anche questa ulteriore suggestione del perdente per ingiustizie subite. E Mancini inizia a far giocare a calcio l'Inter, fa due cose molto semplici: compra Zé María e gli fa fare il terzino sinistro in una squadra in cui non c'era più il terzino sinistro, sembrava uno mistero, era sparito il ruolo. I terzini fanno i terzini, i centrocampisti portano palla, Verón inizia a giocare a pallone e a spiegare ai suoi vicini in campo come si fa. L'Inter di Mancini rinizia a giocare e vince nonostante la Juventus in Serie B, la Roma, una lunga serie di pareggi il primo anno. L'Inter di Mancini gioca a pallone molto bene, dell'ossatura su cui lo stesso Mourinho riconosce che è stato semplice mettere le mani. Quindi Mancini è un bravissimo allenatore, al di là delle sue qualità di uomo di marketing in realtà e non di merchandising, proprio l'immagine che porta è quella. Sì, ma poi c'era quasi un fattore fisico nei confronti dei tifosi, esatto, dell'Inter verso Mazzarri. Esatto, sì, proprio. Ma questo è una cosa molto morattiana, Moratti che assume Benitez ma poi lo detesta perché ha le calze dei Simpson, cioè Moratti che odia Gasperini perché in realtà è brutto, cioè ci sono proprio, da questo punto di vista, torniamo a quel momento, abbiamo un bellissimo allenatore, pazienza. Detto questo, poi c'è un altro aspetto, la Roma di Pallotta fa un primo anno disastroso, e quindi adesso che Tohir in tre mesi con dei manager internazionali possa invertire, sei mesi possa invertire la tendenza, con calma. L'Inter deve produrre dei risultati sul campo, deve cominciare a valorizzare dei giovani e poi deve produrre denaro. Sicuramente sfrontare una struttura che drenava e bruciava cassa per delle cifre folli è stato già un primo merito. Ho delle perplessità sul fatto che il direttore generale di questa squadra sia Fassone, ma questo sì, lo sentirete, perché è troppo juventino. No, che adesso è abbastanza bello. Posso dirti un'altra cosa? Sì. È troppo fassone, cioè è proprio il concetto di vedere un uomo di questa poca. Quindi, eppure è uno dei due di cui Toir si è fidato, prendendo in mano la società. Voglio dire, al di là del fatto che non sia bello no, nel senso stilistico, che sia juventino come gli imputano i tifosi dell'Inter, evidentemente qualche qualità ci deve essere. Li ha mandati via tutti, lui no. Li ha mandati via tutti, lui no, anche Ausilio no. Sì. Però, per la verità, no, Ausilio no, però lui è un uomo che Moratti porta a Toir, di cui Toir si fida in questo passaggio. Detto questo, concludo molto brevemente, è questa la parte più interessante. Mancini, in una società che non ha un volto pubblico forte, ma soprattutto che ha una carenza, perché Fassone abbiamo detto che lascia qualche perplessità, Mancini viene all'Inter a fare il manager, c'è un ruolo molto british da questo punto di vista. Credo che quello che gli era per poco, perché la presenza di Branca non era particolarmente rassicurante, impedito, che poi Mourinho è riuscito a fare, lui possa farlo adesso. Sì, ma lui lo faceva già, in realtà, perché i duelli con Moggi, con la Juventus, vediamo quanto dura questa duelli verbali, effettivamente erano stato un tratto distintivo, cioè per la prima volta dopo Zaccheroni, dopo tutti quelli che l'avevano preceduto, Moratti aveva trovato qualcuno che ci metteva la faccia al posto suo, e questo effettivamente può essere un valore aggiunto in questo momento, con Toir che abita a Giacarta e con gli altri dirigenti che dal punto di vista mediatico sono più deboli, cioè l'Inter non ha Gagliani, non l'ha mai avuto, tantomeno ce l'ha in questo momento, in cui Moratti cerca di non rispondere, perché non ci vuole mettere la faccia. Grazie Michele. Grazie a voi. Un abbraccio, grazie Michele Dalai. Tutti convocati. Allora, Giovanni Capuano, ci sono dichiarazioni di Moratti, che quelle di prima le avevamo già dette, felice per Mancini, il primo allenatore con cui ho vinto, ha deciso Toir, ma un cambio era necessario, poi ha aggiunto Moratti, aveva certamente in mente lui di farlo, dovete chiedere più a Toir che a me qualcosa che riguarda la società, mi spiace per Mazzarri, ci ha messo il suo massimo per fare bene. Sono felice per Mancini, spero in bene adesso, è molto bravo, gran lavoratore ed è necessario in questo momento. Domani 14, domani alle 14 dovrebbe esserci la conferenza di presentazione di Mancini. Perfetto. Allora, prima abbiamo citato Andrea Sorrentino, che ha scritto oggi sul sito di Repubblica che Moratti può dire quello che vuole, ma è stato proprio lui a convincere Mancini ieri sera. Ciao Andrea. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Cos'è successo ieri sera? Che Moratti abbia convinto Mancini, così è una sintesi dei titoli. In realtà Mancini è stato contattato dai dirigenti dell'Inter nei giorni scorsi, risulta che sulle prime fosse anche leggermente perplesso, perché non capiva bene le prospettive dell'Inter. Evidentemente gli sono state spiegate alcune cose che lo hanno convinto, finché ieri poi ha incontrato a Milano l'ex presidente dell'Inter Moratti, i due hanno parlato un po' e il Mancio è uscito ancora più rafforzato nelle sue convinzioni da questo colloquio, e alla fine stamattina, praticamente nella prima mattinata di oggi, hanno concluso l'accordo, che poi deve essere ancora verbalizzato e chiuso in queste ore, ma insomma è tutto fatto. Però l'intervento di Moratti c'è stato, del resto Moratti, soprattutto nelle ultime settimane, possiamo dire che ha un po' ripreso parte del suo ruolo nell'Inter, e forse è servito anche quello scrollone che lui ha dato qualche settimana fa con quelle dimissioni. Di sicuro Moratti oggi, 14 novembre, ha maggior peso nell'Inter di quanto ne avesse il 14 ottobre scorso. Quindi dobbiamo aspettarci che partecipi all'aumento di capitale, che la bufera sia passata. Non mi spingerei così avanti. Però ragazzi, di sicuro si deve registrare in questi ultimi giorni un certo qual cambio di rotta nelle strategie dell'Inter, perché c'è l'austerity, ci sono i buchi in bilancio, c'è un procedimento UEFA contro l'Inter, come sappiamo, per questo sforamento del passivo di bilancio, però Mancini guadagnerà moltissimo, guadagnerà quanto si attendeva di guadagnare un allenatore dei suoi livelli, quindi già molto più di Mazzarri ad esempio. Questo vuol dire che evidentemente all'Inter si è deciso per qualche investimento a cui prima non si era pensato. Questi nuovi investimenti vedersi aumento di capitale, parteciperà senz'altro anche Massimo Moratti. Cioè, possiamo dire una cosa, perché gli amici da casa si arrabbiano, dicono che facciamo troppo i conti in tasca all'Inter, quanto vale questo esonero, è una follia economica viste le situazioni dei conti, però mai come questa volta bisogna seguirlo il filo dei soldi, perché noi non possiamo passare in 48 ore da una situazione di campanello d'allarme, quella che abbiamo letto sui giornali, alla svolta di questa mattina. Evidentemente la mossa di Toer ha dei retropensieri che non sono, ripeto, soltanto tecnici, tattici, anzi credo che sia l'ultimo questo dei motivi. Andrea? Sì, Toer ha capito che tagliare troppo e basta non è possibile, perché non si rilancia tecnicamente la squadra, e quindi ha capito, o gli hanno fatto capire, che bisognerà spendere di più. L'ingaggio di Mancini è senz'altro l'inizio di questa nuova fase. Poi, se mi chiedete da dove arrivano queste nuove iniezioni di denaro, come arrivano, da chi, perché, come, io non ve lo so dire, forse non saprò dirlo neanche fra poco. Magari ma anche perché Mancini qualcosa avrà chiesto, oltre ai 3 milioni all'anno. Io credo che non prenderà meno di 5 netti all'anno, attenzione, per questo vi sto parlando di ingaggi veri, e quindi questo vuol dire che all'Inter sta cambiando qualcosa a livello di investimenti, non c'è altra spiegazione. E se, dato che, appunto, come diceva la famosa gola profonda del caso Watergate, bisogna sempre seguire i soldi, sono i soldi la spiegazione di tutto questo cambio di indirizzo all'Inter. Evidentemente ci sono più soldi di quanti ce ne fossero un mese fa, o prevedono di averne, e prevedono di investirne, non c'è altra spiegazione, se no prenderanno Zenga. Che peraltro è stato in ballo, come dicevo prima, è stato in ballo fino all'ultimo momento, come documenta un tweet dello stesso Zenga, o almeno credeva di essere in ballo. Andrea, qualcuno avrà chiamato, sì, almeno. Immagino. Andrea, ti risulta che nelle ultime 2-3 settimane ci fossero delle discussioni tattiche tra Mazzarri e una parte della squadra, cioè quello spogliatoio granitico in realtà non fosse poi così inattaccabile, ma non aveva detto siamo tutti con come è stato dipinto della ditta. Ma magari qualcuno che si aspettava di giocare in una difesa 4, qualcuno che non ha gradito alcune destinazioni. Guarda, qualche scontento c'era sicuramente, uno di questi era Vidic, che non si trovava con la difesa 3, un altro era Guarin, che era praticamente scomparso dai radar, che invece, possiamo già anticiparlo, con Mancini tornerà ad avere un ruolo più centrale. Però non c'era una squadra contro Mazzarri. Quello che io ho appurato anche nei giorni scorsi era che il grosso dello spogliatoio, anzi, appoggiava, quasi ammirava, era quasi intenerito dagli sforzi abnormi che stava facendo Mazzarri per tirare su le cose, solo che i dirigenti si sono resi conto che invece il povero Walter Mazzarri proprio era schiacciato dalla pressione, dalla tensione e dall'ansia, dall'angoscia di non riuscire a fare di più, e pare che l'abbiano visto anche molto, molto provato già alla vigilia di Inter Verona. Insomma, era un uomo prima che un allenatore molto, molto provato, e i dirigenti hanno capito che non avrebbe più potuto rilanciare, se non altro emotivamente, la squadra, e da qui la decisione. Oh, intanto c'è un tweet bellissimo di uno dei blogger che segue di più l'Inter e il suo mondo, c'è la foto di Mancini sotto il diluvio di Parma, 18 maggio 2008, ma se si mette a piovere... ma aveva Ibrahimovic, però, no? Sbaglio. Lui aveva Ibrahimovic, Mazzarri aveva Bonazzoli, che tra l'altro è stato il primo e unico giocatore della primavera promosso in prima squadra da Mazzarri, anche questo forse uno dei discorsi che in tanti gli hanno imputato. Comunque la cosa veramente strana, adesso tutto passa, tutto si cancella, ma non so se ricordate 6 anni fa quanto traumatico fu il divorzio di Mancini dall'Inter, fu un esonero su 2 piedi proprio dopo quello scudetto vinto a Parma per prendere Mourinho, che in realtà era stato già contattato da mesi, ci fu una causa per le famose frasi di Mancini dopo Inter-Liverpool, insomma ci hanno lasciati malissimo Mancini e l'Inter. E Mancini e Moratti. Sì. Piano piano il rapporto si è ricostruito. Grazie a Mazzarri, grazie a Mazzarri, si è ricostruito perfino il rapporto tra Moratti e Mancini. Grazie Andrea. A voi, a te. Ciao Andrea. Ciao. Francesco Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti i radioaspettatori. Buongiorno, senta, volevo dare la mia opinione per quanto riguarda quello che è successo all'Inter. Allora, io credo che l'esonero di Mazzarri sia la conclusione, o meglio, uno dei punti più drammatici di una battaglia all'interno della società Inter. tra Moratti e Toir, che ha avuto alcuni momenti particolari un po' l'anno scorso. Il primo è stato il famoso mancato partita giocata da parte di Zanetti nel derby, poi il secondo molto importante quando sono stati allontanati alcuni personaggi tra virgolette morattiani, molti dei quali inefficienti che stavano lì solamente per prendere soldi, da Filucchi fino a Cordoba, ma il dottore ne potrei dire tanti altri. Poi ci sono stati altri momenti quest'anno molto importanti. Uno decisivo è stata la frase di Bolingbroke, credo che si pronunci così, quando disse che il bilancio dell'Inter era spaventoso e la responsabilità era straditata a Moratti. Sì. E poi non ultimo questo discorso di investimento di capitale, sì, che probabilmente è stata la goccia che ha permesso a Moratti di tornare in auge e di fare quello che voleva già da prima, anche perché quella famosa frase di Mazzarri in quell'intervista dove gli è stato chiesto... Sì, insomma, questione di soldi, di cuore di soldi. Sì, alle 15.44 del 14 novembre però risulta che Tuir resti il proprietario dell'Inter, no? Perché risulta, altrimenti... Sì. Anzi, domani compie un anno, no? Altrimenti viene l'idea, domani compie un anno, altrimenti viene l'idea che Moratti è tornato proprietario, presidente e tutto il resto. Con lo scalpo del suo primo allenatore, sì, nella sua carriera da presidente di un club di calcio italiano. Tutti convocati. Giovanni, mi permetti di fare una digressione? Non ne posso più. Moratti, Mazzarri, Toir, Inter, Mancini. Se vuoi parliamo della Coppa d'Africa. No, io voglio sentire Giacomo Bagnasco, che è sulla via di Genova. Ciao Giacomo. Dove è finito Giacomo Bagnasco? Adesso ricompare Giacomo Bagnasco perché giocano oggi. Perché piove, Italia-Argentina, questa grande tre giorni di Genova, quattro giorni di Genova, che si chiuderà martedì sera con l'amichevole della nazionale. Vediamo se giocano a calcio a pallanuoto a Genova con la nazionale, perché anche i prossimi giorni la situazione sarà difficile. No, stavamo parlando durante il traffico del fatto che Moratti è improvvisamente tornato al centro del villaggio nerazzurro. No? Ma la percezione è questa, almeno ad ascoltare la gente da casa. Poi in realtà Moratti resta col suo 29,5%. Siamo tutti curiosi di capire cosa succede dell'aumento di capitale, di quelle mosse economiche che comunque andranno fatte, perché la situazione non è cambiata da 48 ore a questa parte. Evidentemente sarebbe una buona notizia se davvero Moratti e Toir tornano a gestire in pieno accordo il progetto dell'Inter, che rimane comunque, a me spiace ritirare fuori il discorso dei soldi, ma rimane comunque un progetto che economicamente sta vivendo un passaggio delicato in cui è quanto mai necessario fare operazioni di verità, cioè spiegare che cosa è e che cosa saranno le prossime stagioni. Poi se insieme hanno deciso di fare questo passo e i tifosi dell'Inter sono contenti, ben venga. Certamente è qualcosa che dal punto di vista economico ha pochi appigli. Allora, prima Sorrentino ci parlava di 5 milioni di euro l'anno per Mancini netti, sono un sacco di soldi. Non so esattamente, nessuno di noi sa esattamente. Sì, poi c'è il gioco dei bonus, però rimane in piedi il discorso di qui sopra, cioè Mancini avrà chiesto soldi certamente, ma avrà chiesto anche regali nel mercato di gennaio. Ma no, io non so quali siano i margini di manovra dell'Inter nel mercato di gennaio. A dire la verità, non so nemmeno quali siano i margini di manovra nel mercato di giugno e luglio. Tra l'altro, tra un paio di mesi, quando avremo il risultato del patteggiamento con la UEFA, vedremo ad esempio se all'Inter sarà applicata la stessa tipologia di sanzione che è stata applicata a Paris Saint-Germain e Manchester City. E in quella tipologia di sanzione c'è anche che non si può sforare in maniera eccessiva con le spese se non si è venduto. Io immagino che possa succedere qualcosa di simile anche all'Inter, ad esempio. Quindi in questo momento io credo sia impossibile dire con grande serietà e attendibilità quali possano essere i budget e le strategie di mercato dell'Inter nei prossimi mesi. Di sicuro Mazzarri avrà ricevuto delle garanzie, almeno per avere una squadra che in qualche modo sia costruita e sia funzionale su quella che è la sua idea di calcio, che è profondamente diversa dall'idea di calcio di Mazzarri. Vabbè, mi spiace molto che non riusciamo a parlare con Giacomo Bagnasco, telefoni che fanno i capricci. Avevo voglia di sentire cosa succede laggiù, dove alle 17.15 di oggi si gioca Italia-Argentina, una partita di rugby importante, ma che ha molti altri significati in questo momento drammatico. Antonio Napoli, buongiorno. Ciao, buongiorno. Su Mazzarri, vabbè, il rugby è uno sport bellissimo, sono un appassionato anch'io di rugby, purtroppo non è all'altezza del business che ci vede intorno. Sì. Su Mazzarri è rimasto ancora a Napoli, cioè che sta colore, cioè nel senso, perché in quel contesto è rimasto lì con la mentalità, è l'ultima squadra che ha avuto a disposizione con un grosso pubblico, faceva affidamento, ma l'interista è tutta un'altra scuola, è tutto un altro livello di calcio, cioè coppe, scudetti. Però sono d'accordo con gli ascoltatori di prima, interista, sono napoletano. Ci dobbiamo fare un bagno di città, non ci sono soldi, senza soldi non si cantano messe. Dobbiamo fare come in Germania, il Borussia Dortmund, il Bayern, quando l'Inter era grande, non è chissà che grande squadra era. La contadina, il vivaio, il Barcellona, questi sono gli obiettivi, basta, ci dobbiamo mettere un pizzico sulla pancia e andare avanti, perché poi il calcio è lo sport più bello del mondo, e quindi? Per questo. E quindi è bello, dobbiamo curare i dettagli, il vivaio, vabbè, i dettagli, il vivaio, sì, è tutto vero, ma stiamo parlando del Inter, che è uno dei club più importanti, sì, i bookmaker inglesi quotano a 15 il ritorno di Balotelli all'Inter, perché poi adesso parte la suggestione del ritorno di Balotelli all'Inter, e sono notevolmente crollate le quote per l'Inter che vince lo scudetto e per l'Inter che vince lo scudetto e per l'Inter che torna in Champions. Sono curioso di sapere quali fossero le quote e andiamo a cercarle dopo. Sarà meglio, credo fossimo intorno ai 40-50, conoscendo più o meno come funziona. Comunque Mancini arriva domani, no? Mancini arriva domani, dovrebbe essere alle 14 la prima conferenza stampa, e poi da lunedì recupererà qualche nazionale, non tutti, il resto dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì. Se scopriremo mai che cosa, cioè perché tu eri aspettato una settimana, cioè che cosa è successo in questa settimana? Io credo ci vorrà un po' di tempo, poi prima o poi verrà fuori. Quello che mi risulta è che davvero questa mattina Mazzarri e il suo staff non sapessero nulla. Mi risulta che Mazzarri è arrivato all'ora di pranzo alla Pinettina perché c'era allenamento pomeridiano. Mi risulta che lo staff fosse presente in mattinata, già vestito in tuta, stesse preparando l'allenamento, stesse facendo lavoro di routine, e sia stato raggiunto dalla notizia prima, credo, dai giornalisti e poi ufficialmente dalla società. Dici che approfittando della presenza di Balotelli a Milano per la nazionale si intrecceranno anche questi discorsi. Io dico che sicuramente dobbiamo aspettarci a vivere questo tormentone, che in fondo è quello che ha accompagnato Mancini un po' in tutta la sua carriera, in sarebbe tutti i suoi spostamenti. Sarebbe veramente. Ne hanno divertente. Parlato anche per il Galatasaray quando era andato in Turchia, anche se aveva appena discusso. Litigato, terza volta che Mancini subentra in corsa, peraltro, per inciso. Terza volta che Mancini subentra in corsa. City e Galatasaray, no? No, credo la quarta allora, perché anche all'inizio, quando ha avviato la sua carriera, tra l'altro vinse la Coppa Italia al primo colpo, di fatto giocando solo la finale, però sto andando a memoria. Va bene, tanto torniamo domenica, io credo che ne parleremo, no? Domenica dalle 17 alle 19, no, parliamo della Coppa d'Africa. Ma come parliamo della Coppa? Che si gioca in Guinea Equatoriale. Ma tu sei pazzo, parliamo della Coppa d'Africa. Quindi prendi domenica dalle 17 alle 19, tutti qui a parlare di Mancini, dell'Inter, di una nazionale che giocherà con Balotelli che magari si ferma a Milano, eccetera eccetera noi eccetera. Tentiamo un esperimento difficile. Qual è? Vogliamo anche gli interisti che dicono però Mancini non è Mourinho. Stai tranquillo che arrivano. Ci sono, stai tranquillo che arrivano, caro Giovanni Capuano. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Alessandro Marcotulli in redazione. Ciao a tutti, ci sentiamo appunto domenica dalle 5 alle 6. A domenica. Ciao. Me ne posso andare? No, non la faccio più, già caldo. C'erano abbastanza pagliacci in questo film. Ehi, la mia esperienza forse può essere d'aiuto. Ecco il nostro quinto uomo. Bene, puoi realizzare il tuo sogno, Bill, contento? Già. Allora, dobbiamo segnare due ecco punti. Lo schema. Duck, tu ricevi e servi Lola Bunny in posizione di post. Un paio di finte scarichi su Bugs. Ehi. Il quale darà a Michael lasciato Bill, solo, che schiaccerà in entrata e andrà al tiro piazzato. Prima dobbiamo difendere. Già. Io non mi spreco a difendere. Un classico. In questo caso l'esperto è Michael, ragazzi, sentiamo. Qualcuno deve rubare la palla e darla a me. Ci penso io a segnare prima della sirena. Fiducia in se stessi e freddezza. Non segnare, ragazzi, mani e zampe, tutte qui, dai. Ciao. Randstad, la stessa passione nel lavoro e nello sport. vi ha presentato Tutti Convocati.